Lavoro e fisco, squinzi in calza Monti, zavorre intollerabili, puntiamo sulla crescita. Non sono studenti e lavoratori il nostro obiettivo, lettera delle nuove BR che si dissociano dalla bomba di Brindisi. Bufera Lega, Maroni, potremmo lasciare il Parlamento e la Camera approva un emendamento che vieta ai partiti di investire se non in titoli pubblici. Allarme a Trapani, inseguimento folle in autostrada, al procuratore per gli inquirenti un atto di intimidazione, Napolitano a Corleone, la mafia non è finita ma finirà. E buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Sulle imprese dunque, come sentivate, gravano zavolle intollerabili, è stata questa l'espressione usata dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che non ha usato mezzi termini nel suo primo discorso all'assemblea dell'associazione zavorre che sono innanzitutto, ha detto, fisco e burocrazia, ma il suo è stato un discorso a tutto campo. E allora andiamo dai nostri inviati, a cominciare da Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Parla di urgenze per il Paese, indica le priorità per l'economia. Un intervento a 360 gradi, quello del neo presidente di Confindustria. Riforma della pubblica amministrazione per ridurre la pressione fiscale e rilanciare i consumi e sblocco del credito alle imprese. Gli interventi che, secondo Squinzi, non possono essere rinviati. Serve per questo, aggiunge Squinzi, l'intesa tra governo e Parlamento, con la necessità che resta in primo piano, dice ancora il leader degli industriali, che è il ritorno alla crescita. Sentiamo questo passaggio. Il nostro primo compito è arrestare l'emorragia e restituire fiducia. L'emorragia si misura con le decine di migliaia di imprese che non sono sopravvissute alla crisi. L'emorragia si misura con gli oltre 2.500.000 persone che non trovano lavoro. L'emorragia si misura con il senso di sgomento che attraversa il Paese. Dobbiamo fermare questa emorragia. Dobbiamo ridare speranza. Altro capitolo, la riforma del mercato del lavoro appare meno utile alla competitività del Paese di quanto avremmo voluto, dice il presidente di Confindustria. Sentiamo allora ancora Giorgio Squinzi. La riforma del mercato del lavoro appare meno utile alla competitività del Paese e delle imprese di quanto avremmo voluto. È una riforma che modifica il sistema in più punti, ma a nostro giudizio non sempre in modo convincente. In 4 mesi di confronto con le parti sociali, il Governo non ha mai dichiarato l'intenzione di voler chiedere al Parlamento una delega sui temi della cosiddetta democrazia economica, cioè sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. A sorpresa, scopriamo tra gli emendamenti approvati del Senato una norma che delega al Governo la disciplina in materia. Su questi temi voglio dire con chiarezza che siamo assolutamente contrari a ogni imposizione per legge di forme di cogestione o codecisione. La pressione fiscale è troppo alta, denuncia ancora il presidente di Confindustria, che parla di zavorra intollerabile, che si aggiunge ad altre zavorre che penalizzano le imprese italiane. Da Roma è tutto. Grazie. E a rispondere a nome del governo davanti agli industriali c'era il ministro Corrado Passera. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, giusto richiamare il governo ad uno sforzo aggiuntivo, ma il Paese si aspetta anche molto da voi. Il ministro dello sviluppo economico Passera sprona così le imprese nel suo intervento all'assemblea di Confindustria, ma risponde anche alle preoccupazioni del neopresidente Squinzi sulla eccessiva pressione fiscale. Sul fisco assicura, faremo cose positive e tangibili. Il momento è comunque difficile, aggiunge il ministro, le due priorità sono crescita e occupazione, ma sentiamo un passaggio del suo intervento. L'effetto dei 10 anni di non crescita si è tutto accumulato, 2 recessioni, una in fila all'altra e una ancora pienamente in corso, si aggiungono. Il disagio sociale che dobbiamo avere il coraggio di misurare nella sua completezza, perché oltre ai disoccupati ci sono gli inoccupati, ci sono i cassaintegrati, ci sono i sottoccupati, e quindi è una quantità grande della nostra società che sta in difficoltà, e anche questo si accumula. L'effetto degli interventi che ci hanno permesso di evitare lo scivolamento del nostro Paese ovviamente adesso si toccano e mordono. Dall'altra parte, molti degli interventi di sviluppo, di crescita, porteranno risultati soltanto in tempi più lunghi, quindi è il momento in cui è più difficile tenere la barra al centro, però questo deve essere. Dobbiamo accelerare quelle riforme che ancora vanno fatte, dobbiamo accelerare l'apporto il più possibile di risorse all'economia. E a seguire la relazione di Squinzi, una folta schiera di ministri e di leader politici di entrambi gli schieramenti, una relazione perfettamente condivisibile, ha commentato il presidente del Senato Schifani, perché ha interpretato le esigenze di modernizzazione del nostro mondo industriale. Da Squinzi concretezza e visione del futuro, dice il segretario del PDL Alfano, mentre il leader del PD Bersani parla di intervento sobrio e non demagogico. E in prima fila ad ascoltare Squinzi la ex presidente di Confindustria Marcegaglia, che ha passato il testimone al suo successore augurandogli in bocca al lupo. Il periodo è difficile, c'è ancora forte preoccupazione nel paese, ma Squinzi saprà affrontare le sfide. Marcegaglia ha poi aggiunto che non ci sarà nessun impegno da parte sua in politica. Torno in azienda e in famiglia. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Il sistema delle imprese è al centro, una leva decisiva per superare la crisi attuale e anche uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato in occasione dell'assemblea annuale di Confindustria. Napolitano, che però oggi è ancora in Sicilia. Corleone. Il funerale di Stato al sindacalista della CGIL Placido Rizzotto, ammazzato dagli sgherri mafiosi nel 1948 e gettato in una foiba della Rocca Busambra, è un tassello fondamentale nel cammino di riscatto della Sicilia dal giogo mafioso. La presenza del capo dello Stato nella chiesa di Corleone, gremita di fedeli, per partecipare alla messa celebrata dal vescovo di Monreale è un omaggio dello Stato alle lotte per il lavoro e contro la mafia, un riconoscimento a chi si batte in queste terre contro Cosa Nostra, alla cooperativa che porta il nome di Rizzotto e che coltiva le terre tolte ai mafiosi, ai tanti cittadini che non hanno mai ceduto al ricatto dei criminali. Da Corleone, al suo secondo giorno di visita in Sicilia, il capo dello Stato lancia un messaggio di speranza. C'è sempre bisogno dello Stato. Non abbiamo mai pensato che la mafia fosse finita, dice Napolitano, ma pensiamo che finirà. Finirà, ma non è ancora finita. Filo conduttore di queste giornate, dice ancora il Presidente della Repubblica, è rendere onore a chi ha combattuto e pagato con la vita, perché i loro sacrifici hanno dato i loro frutti. C'è molto di nuovo in Sicilia, ricorda Napolitano. C'è molto di nuovo nelle coscienze della gente siciliana, in particolare dei giovani siciliani. È un elemento di forza per tutto il paese, chiude il Presidente della Repubblica. Una speranza che vale anche per le vittime della strage di Portella delle Ginestra, eseguita dalla banda di Turiddu Giuliano il 1° maggio del 1947. L'incontro avviene proprio nel pianoro in cui la banda sparò. A Corleone stamattina il Presidente ha consegnato la medaglia d'oro al valor civile alla sorella del sindacalista, il quale, ha ricordato Emanuele Macaluso, che fu dirigente della CGIL e poi del PC, si batteva per togliere le terre incolte ai feudatari mafiosi e per questo fu ammazzato. Come lui, altri sindacalisti caddero in quegli anni. Susanna Camusso, leader della CGIL, invece ha detto: Placido Rizzotto, soldato e partigiano, segretario della Camera del Lavoro, era mosso da un profondo senso di giustizia e aveva compreso una verità che ancora oggi è il pilastro della lotta contro le mafie e che la Torre tradusse in una legge insieme a Rognoni. Le mafie si sconfiggono colpendole al cuore, nel loro interesse economico, e si sconfiggono non cedendo alla paura, rifiutando la violenza e la brutalità, difendendo libertà e lavoro come fonte di autonomia delle persone. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. In Sicilia un inquietante episodio è da registrare intanto, perché la procura di Caltanissetta indaga su un'intimidazione subita lo scorso aprile ma resa nota solo oggi dal procuratore di Trapani, Marcello Viola. Il magistrato e i carabinieri della sua scorta sono stati inseguiti da un'auto a velocità folle lungo l'autostrada Palermo-Trapani per più di mezz'ora. Per gli inquirenti si tratta di un episodio gravissimo di intimidazione. Un messaggio intanto sulla bomba di Brindisi è arrivato poco fa. Andrea Viali. Non sono certo gli studenti o i lavoratori i nostri obiettivi, questo si legge in una lettera che è arrivata stamattina per posta all'agenzia ANSA, alla redazione di Ancona. Il testo è firmato da una sedicente brigata Gino Liverani Diago delle Brigate Rosse, che con la lettera prende appunto le distanze dall'attentato di Brindisi. Il nome scelto da questo gruppo dovrebbe essere quello di Tommaso Gino Liverani, un esponente della colonna marchigiana delle Brigate Rosse, morto durante la latitanza in Nicaragua negli anni Ottanta. Naturalmente ora sono in corso indagini per verificare l'attendibilità di questo documento, però è tutto. E grazie ad Andrea Viali, naturalmente vi daremo altri aggiornamenti quando ci saranno. Addio agli investimenti in diamanti e lingotti per i partiti. Un emendamento alla legge sulla riforma dei partiti approvato dalla Camera poco fa vieta infatti di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari che non siano titoli emessi da stati membri dell'Unione Europea. E intanto per la Lega però scoppia un nuovo caso. Maroni dice addirittura potremmo andarcene. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, un addio molto spesso annunciato che però potrebbe adesso essere vicino. La Lega non esclude di lasciare il Parlamento, lo deciderà il Congresso, spiega Roberto Maroni, che annuncia anche nuove iniziative per trovare risposte concrete alla questione settentrionale. Rinnoveremo la nostra proposta politica per tornare a prendere consensi in queste elezioni e aumentarli. È una sfida difficile, ma sono sicuro che possiamo farcela, dice il numero uno della Lega. Tutto ciò a margine dell'assemblea di Confindustria. E a questo proposito Maroni ha parlato anche del discorso del neopresidente Giorgio Squinzi sulle tasse: non sono convinto. Invece, per quanto riguarda il PDL, parla Fabrizio Ciccitto, che sprona il partito a radunarsi attorno al segretario Angelino Alfano per rinnovarlo e dice no all'autolesionismo. Nel PD sprona alle primarie Matteo Renzi, il Partito Democratico e anche Casa Mia, no alla cultura stalinista, non me ne vado. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. E grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Andiamo invece a Bruxelles. L'Italia vuole che la Grecia resti nell'euro ed è determinata a sostenere il raggiungimento di questo obiettivo. A ribadirlo proprio a Bruxelles questa mattina è stato Mario Monti. Il premier Mario Monti ha incontrato a Bruxelles Antonis Samaras, leader del partito conservatore greco Neodemocrazia e candidato a leader alle prossime elezioni del 17 giugno. Monti, che incontrerà a Roma anche il leader socialista greco Evangelos Venizelos, ha ribadito la ferma volontà italiana che Atene resti nell'euro. Samaras ha rassicurato Monti sulla determinazione del suo partito a mantenere agganciata la Grecia all'Europa, rispettando il memorandum d'intesa con i creditori internazionali. Il vertice informale di Bruxelles, il 18° dall'inizio della crisi greca, ha visto poche novità: un incremento di 10 miliardi di euro per la BEI e 230 milioni di project bond, ma anche Delors bond, poca cosa. Ma è stato posto sul tavolo il tema centrale degli Eurobonds, dove Roma ha gettato le basi con Parigi di un asse per isolare la Germania. Ecco perché Monti ha invitato Samaras a resistere. Prima o poi anche l'Europa dovrà rivedere la posizione sulla mutualizzazione del debito e ridurrà i costi di accesso ai mercati anche per i periferici, Grecia compresa. Vittorio Darold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi di GR24, lavoro e fisco. Su questi temi il neo presidente di Confindustria Squinzi incalza il governo: sono zavorre intollerabili, dice, ora puntiamo sulla crescita. Non sono studenti e lavoratori il nostro obiettivo, così in una lettera firmata BR si dissocia dalla bomba di Brindisi, è stata recapitata questa mattina alla sede ANSA di Ancona. Bufera Lega, Maroni dice potremmo lasciare il Parlamento e la Camera approva intanto un emendamento che vieta ai partiti di investire se non in titoli pubblici. Allarme a Trapani, inseguimento folle in autostrada al procuratore, per gli inquirenti un atto di intimidazione. Napolitano a Corleone poco fa ha terminato il suo discorso: la mafia non è finita ma finirà, ha detto. Queste le notizie di cui già abbiamo parlato nel nostro giornale. Riprendiamo invece andando in Emilia-Romagna, dove proseguono le scosse di assestamento. A finale Emilia, epicentro del sisma, 3 forti scosse sono state avvertite tra ieri sera e questa mattina, in tutto una ventina di scosse di assestamento, e nelle zone colpite dal sisma sta terminando in questi minuti un sopralluogo del ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi, che ha annunciato in Consiglio dei Ministri chiederò risorse specifiche. Con lui anche il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli e il presidente della Regione Emilia Vasco Errani. Intanto gli sfollati hanno ormai raggiunto quota 6.000, molte famiglie dormono in macchina, riferiscono le fonti sul posto, e Maria Luisa Pezzali ne ha chiesto conferma a Giorgio Marchetti, vice responsabile della Protezione Civile di Finale Emilia. Famiglie in macchina ce ne sono, ma sono famiglie che preferiscono stare in macchina perché neanche nelle strutture vogliono entrare. C'è ancora posto nei campi. La situazione attualmente qual è in termini numerici e di condizioni, insomma, di gestione? Non abbiamo i dati di questa mattina perché li stiamo raccogliendo, ma direi che è la medesima di ieri, ecco. Non è che se ne siano aggiunti, anzi la zona non rossa, quella è considerata non rossa, diciamo che la gente può rientrare già nelle case se non è strutturalmente danneggiata, per cui alcuni sono già rientrati nelle case. È stata nuovamente ristretta la zona rossa? Questa viene modificata giornalmente e ristretta da una parte e allargata un pochino dall'altra. Giornalmente si hanno delle modificazioni di questa area, ecco. Queste nuove scosse della notte e del primo mattino hanno complicato la situazione delle verifiche di agibilità? No, non hanno complicato nulla. Sono state transennate 2 o 3 abitazioni dove si è verificato uno stacco di cornicione, un po' di pietre e quant'altro. Ed è massima allerta anche per gli sciacalli. I carabinieri hanno denunciato 5 persone tra i 17 e i 31 anni sorprese con utensili di scasso nei pressi di una gioielleria a Mirandola, dove avevano appena tentato di rubare anelli. Rispettare la decisione o sarà emergenza, parla così il prefetto di Roma a proposito della decisione di realizzare la discarica nel territorio di Carcolle vicino a Villa Adriana. Per la sede della discarica è stata individuata una ex cava a meno di 1 chilometro dal sito archeologico. Il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, Andrea Carandini, si è dimesso in polemica con il ministro Ornaghi, che comunque si dice contrarissimo e minaccia a sua volta le dimissioni. E allora al microfono di Katia Caramelli, Riccardo Luciani, assessore all'ambiente del comune di Tivoli. La nostra è una posizione di netta contrarietà per una lunga serie di motivi paesaggistici, archeologici, soprattutto il pericolo che la villa dell'imperatore Adriano venga depennata dalla lista dei siti UNESCO. Noi siamo nella lista nera dei siti a rischio. Quanto dista da Tivoli la discarica? 700 metri. Che rischi ci sono? Dal punto di vista ambientale, rischi enormi per le falde acquifere e per una zona che è stata quella del quadrante est di Roma, largamente compromessa a livello di rifiuti ambientali. Pensiamo a prima Rocca Cencia oppure alla discarica dell'Inviolata di Guidonia. Quindi quello che doveva diventare il quadrante culturale e turistico di Roma in realtà diventa il quadrante dei rifiuti. La decisione spetta ad un altro comune. Sì, esattamente, infatti è questa poi la cosa che ci crea imbarazzo, perché è l'ultimo lembo del comune di Roma, ma talmente è vicino a noi che si può dire che la discarica sta sul territorio di Burtino. Nell'immediato continueremo con le forme di protesta, facendo arrivare questa voce fino a Monti. Non capiamo questa scelta, nonostante abbia avuto l'opposizione di 2 ministri del suo governo. Io credo molto in Clini e Ornaghi. E sono convinto che faranno il possibile affinché non venga perpetrato questo scempio. Rubavano libri antichi custoditi nella biblioteca dei Girolamini di Napoli. Uno di loro era il bibliotecario. In 5 sono stati arrestati. In carcere è finito Massimo Marino De Caro, direttore della biblioteca, con lui anche Sandro Marsano nella qualità di conservatore della biblioteca e altri 3 stretti collaboratori personali di De Caro. L'accusa è quella di aver venduto manoscritti, volumi preziosi, storici, costituenti il patrimonio librario della biblioteca Girolamini di Napoli. In tutto 257 volumi. Il danno economicamente forse potrà essere conteggiato, ma è quello morale il più grave, irreparabile, dice il procuratore di Napoli Melillo. Durante l'operazione sono stati intercettati dall'Interpol tedesca e salvati 500 volumi antichi in procinto d'essere venduti in una casa d'asta di Monaco di Baviera. Nel corso della stessa operazione i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio artistico hanno sequestrato più di 1000 libri antichi in diverse zone del territorio italiano. I volumi erano a casa di persone insospettabili, lontane dai circuiti librari. Il loro compito era nascondere i libri in luoghi sicuri e difficilmente sottoposti a perquisizioni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un aggiornamento, perché alla Camera si continua a votare in questi minuti il provvedimento che dovrebbe modificare il sistema dei rimborsi elettorali ai partiti. Respinto un emendamento dell'Italia dei Valori e dunque i partiti e i movimenti politici potranno continuare a ricevere rimborsi elettorali anche se tra i loro candidati ci fossero dei condannati. Così è stato deciso poco fa. Continueremo a seguire la vicenda. Ora parliamo invece di cinema e andiamo a Cannes. Brusco calo di prestazione per la 65esima edizione del Festival di Cannes, che ha presentato oggi 2 film di cui si poteva fare a meno. Delude l'atteso Paperboy di Lee Daniels, che non riesce a ritrovare l'ispirazione di Precious, portando sullo schermo una detective story ambientata in una Florida razzista alla fine degli anni 60. La tanto attesa scena erotica recitata da Nicole Kidman è una ben simulata scena di sesso orale, ma ci vuole ben altro ormai per sconvolgere il pubblico cinefilo. Al centro del film l'idolo delle ragazze viene Zac Efron, aspirante giornalista innamorato della Kidman, che esibisce molto il fisico scolpito, tanto che lo stesso regista ci scherza su in conferenza stampa: Zac è bello, la telecamera non può oscurarlo e in più io sono gay. La stampa ha fischiato anche Post Tenebras Lux del messicano Carlo Reigadas, che ha raccontato un'onirica storia intrecciata in cui il nodo centrale sembra avvitarsi attorno a una ricca coppia di giovani genitori con due gemelli afflitta da un problema legato al sesso che li porta a frequentare club di scambisti. Ma attorno alla trama giocano ladri, tagliabosti e povera gente onesta, con ellissi temporali continue, bambine che appena camminano diventano adolescenti, poi di nuovo a ritroso fino a giungere a un finale molto splatter alla Quentin Tarantino. L'unico tratto notevole ed emozionante sono le riprese della natura forte e selvaggia. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cannes. E per il Giro d'Italia, il momento invece del nostro speciale con Dario Ceccarelli, GR24 si conclude qui. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Prossimo appuntamento alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.